Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. Focus Economia, 17:06 minuti, ben trovati da Vincenzo Miglietta. Riprendiamo allora il nostro percorso settimanale dopo la pausa per il Ferragosto con le buone notizie sul fronte della crescita che arrivano oggi dall'Istat, con un dato, quello relativo al prodotto interno lordo, che non si vedeva da parecchio tempo. Il PIL italiano nel secondo trimestre 2017 è aumentato infatti dello 0,4% sui tre mesi precedenti e dell'1,5% sul secondo trimestre 2016. E questo l'aumento tendenziale più alto dal 2011, dunque da 6 anni a questa parte. Soddisfatto il governo? Vedremo tante dichiarazioni, tra tutte quelle del Presidente del Consiglio Gentiloni, che dice: dato meglio delle previsioni, una buona base per rilanciare economia e posti di lavoro. In termini assoluti, ovvero in valore di milioni di euro, però è bene ricordare che il PIL resta lontano dai livelli pre-crisi di oltre il 6%. Prendiamo in considerazione il 2008 per questa comparazione. Nel trimestre di riferimento di quell'anno, infatti, il prodotto interno lordo aveva raggiunto il massimo dell'espansione a 424.824 milioni di euro, mentre le ultime stime preliminari lo indicano a 397.458 milioni. Dunque non siamo ancora ai livelli pre-crisi, ma sono comunque dati molto interessanti quelli di oggi dell'Istat, che si inseriscono in una giornata positiva sul fronte dei mercati, che recuperano azzerando gli effetti della correzione negativa della scorsa settimana, dovuta, lo ricorderete, alle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Corea del Nord. Allora diamo un rapido sguardo ai mercati, partendo da Wall Street, con il Dow Jones in questo momento a più 0,32%, Standard & Poor's 500, sempre Wall Street, più 0,32%, Nasdaq più 0,40%. Per quanto riguarda le borse europee, rapidamente Milano in questo momento più 1,23% a 21.980 punti, stiamo parlando del FTSE MIB. I migliori e i peggiori, sempre interessanti, tra i migliori Atlantia, Fiat Chrysler Automobile, Yux, Intesa San Paolo e Exor. Tra i peggiori Tenaris, Snam, ricordati CNH Industrial, Luxottica. E i titoli più scambiati, Fiat Chrysler, e ne capiremo tra breve il motivo, Intesa San Paolo, Atlantia, Unicredit, Banco BPM e Ferrari. Questo per quanto riguarda FTSE MIB, i migliori e i peggiori, gli altri listini europei. Vediamo allora Francoforte, il DAX 30 più 0,89%, Parigi il CAC 40 più 0,87%, Londra il FTSE 100 più 0,76%. Ora il cambio euro sul dollaro, che è ai minimi da 3 settimane, in questo momento 1,170065. Poi lo spread dei titoli di Stato BTP nei confronti del Bund tedesco a 158,90 punti, meno 1,43%. Questi i temi finanziari. Tra gli altri argomenti di Focus Economia, ancora occhi puntati, lo dicevamo, su Fiat Chrysler. Lunedì scorso ci eravamo lasciati con interessamenti cinesi per Fiat. Oggi l'annuncio dell'intesa con BMW, Intel e la sua controllata Mobileye per lo sviluppo di una piattaforma nella guida autonoma. Infine, altra grana per il gruppo Etihad, parliamo del settore aereo. Dopo il buco nell'acqua, nell'avventura italiana con Alitalia, ora l'insolvenza per Air Berlin, la seconda compagnia aerea tedesca, con il governo della Merkel pronto a mettere sul piatto da subito 150 milioni di euro per l'operatività. A breve questi i nostri temi. Vi ricordo 349-238-6666 il numero per i vostri sms, poi guardate i nostri social Facebook di Focus Economia o il sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che apriamo come è nostra abitudine con le materie prime. Per quanto riguarda l'oro, meno 0,3% a $1,270 l'oncia, il petrolio più 0,3% a $47,7 il barile. Le notizie di economia internazionale le apriamo con una trampeide, così la possiamo chiamare, perché recentemente vi sono diverse notizie relative a Trump. In questo caso il presidente americano attacca Amazon e dice: sta facendo un grande danno ai rivenditori che pagano le tasse. Paesi, città e stati di tutti gli Stati Uniti sono stati danneggiati, molti posti di lavoro sono stati persi. E questo è il primo tweet di giornata del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo abbiamo anticipato nel nostro sommario e ne parleremo poi in uno degli spazi di Focus Economia. Air Berlin in difficoltà, sta dichiarando bancarotta, ma otterrà un prestito per garantire i voli per il momento, lo ha reso noto il governo tedesco. E c'è subito un primo commento da parte di Etihad che dice: siamo stati informati del fatto che Air Berlin ha chiesto l'amministrazione. Questo sviluppo è estremamente deludente per tutti, specialmente perché Etihad ha fornito un ampio sostegno ad Air Berlin per le sue precedenti sfide di liquidità e gli sforzi di ristrutturazione negli ultimi 6 anni. Con queste circostanze, come socio di minoranza, Etihad non può offrire finanziamenti che possano aumentare ulteriormente la nostra esposizione finanziaria. Restiamo aperti ad aiutare a trovare una soluzione commercialmente sostenibile per tutte le parti. Questo dicono da Abu Dhabi, e ricordiamo anche quanto successo con Alitalia. Ne parleremo in Focus Economia. Scriveteci al 349-238-6666. Sempre per quanto riguarda Air Berlin, per Angela Merkel è relativamente basso il rischio che corrono i contribuenti tedeschi a causa di quest'insolvenza. La cancelliera lo ha detto rispondendo a una domanda nel corso di un'intervista rilasciata a 4 youtuber. Con forte probabilità i contribuenti non saranno coinvolti, ha spiegato. La Merkel ha anche difeso il credito concesso dal suo governo alla compagnia aerea: non si potevano piantare in asso migliaia di turisti in viaggio. E quindi la giustificazione del governo di Berlino è quello di intervenire per non mettere in difficoltà i turisti, ma ricordo, se non sbaglio, critiche alla decisione del governo italiano di intervenire nella crisi di Alitalia. Anche qui c'è sempre molto campanilismo. Andiamo avanti con Air Berlin. La Commissione europea conferma di aver ricevuto ieri la notifica del governo tedesco per gli aiuti a questa compagnia. Bruxelles ha ora 2 mesi per prendere una decisione, ha spiegato il portavoce per la concorrenza Riccardo Cardoso. Intanto la portavoce agli affari economici Annika Breddart ha aggiunto: siamo fiduciosi che si possa trovare una soluzione nel quadro delle leggi europee. I reclami da parte di competitor non hanno effetti sospensivi. E ci sarebbero già degli interessamenti per Air Berlin, come Lufthansa, Condor e altre compagnie aeree che sono pronte a diventare partner di Air Berlin o di rilevare delle parti dell'aviolinea. Lo ha detto il viceministro dell'economia tedesco Matthias Macknick ad RTV, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Banca Centrale Europea e Quantitative Easing, un argomento questo che ci riporta alla giornata di ieri, perché ieri vi è stato uno scambio di accuse tra la Germania di fatto e la BCE. La Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe ha deciso di chiedere alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sulla legittimità del programma di quantitative easing lanciato nel 2015 dalla BCE per sostenere l'inflazione nella zona euro. I giudici di Karlsruhe ritengono che vi siano importanti ragioni per ritenere che l'acquisto di titoli di Stato violi la proibizione di finanziare direttamente gli Stati. Questa la Corte Costituzionale di Karlsruhe in un comunicato di ieri. E a stretto giro è arrivata la risposta dell'Istituto di Francoforte. La Commissione Europea è convinta che la BCE stia attuando sulle basi e nei limiti dei trattati, in questo caso scusate è la Commissione Europea, Bruxelles, con l'acquisto di bond di Stato sul mercato secondario nell'ambito delle proprie operazioni di politica monetaria e interverrà in questo senso nel procedimento, quanto fa sapere la portavoce della Commissione Europea per gli affari economici e finanziari, Brainard. E per una volta Schäuble difende Draghi, non condivido questo parere, credo che il mandato sia stato rispettato, così il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha difeso il presidente BCE Draghi, commentando le riserve espresse dai giudici della Corte Costituzionale tedesca sull'acquisto di bond attraverso il QE. Le maggiori banche centrali nel mondo controllano un quinto dei debiti pubblici dei loro governi dopo 10 anni di massicci stimoli a seguito della crisi finanziaria e quanto si legge sulla prima pagina del Financial Times, che ha analizzato i dati del Fondo Monetario Internazionale, arrivando così a calcolare gli effetti di un decennio di quantitative easing. Le banche centrali considerate dal giornale della City sono 6, la Fed, la Banca Centrale Europea e quella inglese, giapponese, svizzera e svedese. Queste combinate controllano un totale di 15.000 miliardi di dollari in assets dei rispettivi paesi. Di questi la fetta di bond governativi è pari a 9.000 miliardi di dollari. Si tratta di livelli 4 volte maggiori rispetto a quelli pre-crisi. Il nodo migranti, il presidente Gentiloni nella lettera di risposta a quella del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker del 25 luglio ritiene necessario un maggiore sforzo europeo per affrontare il fenomeno migratorio che ha una dimensione strutturale e riguarda l'intera Unione Europea. Nella missiva, inoltre, il Premier apprezza la determinazione della Commissione Europea ad essere al fianco dell'Italia, ma sottolinea come sia fondamentale che gli Stati membri dell'Unione Europea concordino di finanziare in modo significativo, già prima del Consiglio Europeo d'ottobre, il Fondo Fiduciario Europeo per l'Africa. Andiamo rapidamente verso il nostro primo approfondimento, che sarà sul prodotto interno lordo. Lo facciamo però anticipando alcuni dati che ci aiuteranno poi a parlare maggiormente e in modo più approfondito della crescita. Il PIL dell'Eurozona è cresciuto dello 0,6% nel secondo trimestre dell'anno, è la stima di Eurostat. Su base annua si tratta di un aumento del 2,2%. Nel primo trimestre 2017 il PIL era salito dello 0,5%, anche nell'Unione Europea a 28 il PIL ha registrato un più 0,6 dopo il più 0,5 del trimestre precedente e del più 2,3% sull'anno. Questo per quanto riguarda il PIL europeo. Per quanto riguarda il nostro paese, allora andiamo nello specifico. Il PIL italiano nel secondo trimestre di quest'anno è aumentato dello 0,4 rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% rispetto al secondo trimestre 2016. Ed ancora il commento di Gentiloni, lo abbiamo detto, dice meglio delle previsioni, una buona base per rilanciare economie e posti di lavoro. E poi il ministro dell'economia Padoan, questa mattina l'Istat ci ha informato che nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato rispetto al trimestre precedente per la 10ª volta consecutiva. L'incremento dello 0,4% corrisponde a una crescita del più 1,5 rispetto al livello raggiunto nel secondo trimestre 2016, il tasso di crescita economica più sostenuto dall'inizio della crisi. E Padoan aggiunge: per i giovani non si è fatto comunque abbastanza, la crescita economica diffusa comincerà a produrre benefici anche per loro, favorendone l'ingresso in un mercato del lavoro reso più dinamico e propenso alle assunzioni, ma misure specifiche per favorire l'inizio di un percorso lavorativo dovrebbero accelerare questo recupero. In chiusura, Fiat Chrysler si unirà al gruppo BMW, Intel e Mobileye nello sviluppo di una piattaforma tecnologica per la guida autonoma. E quanto si legge in una nota diffusa da Torino, in cui viene indicato che la collaborazione rimane in linea con l'obiettivo di mettere su strada 40 veicoli autonomi sperimentali entro la fine del 2017, già annunciata dal gruppo. E per quanto riguarda ancora Fiat Chrysler, Geely Automobile, uno dei gruppi cinesi indiziati di aver avvicinato FCA per un'offerta sul gruppo della famiglia Agnelli, nega l'intenzione di rilevare Fiat Chrysler. Non abbiamo un piano di questo genere al momento, ha detto Gui Shengyu, consigliere delegato di Geely, gruppo cinese che controlla già Volvo, secondo quanto riporta il sito di online Automotive News. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda le nostre headline e passiamo al nostro primo approfondimento. Primo approfondimento che dedichiamo dunque ai dati di oggi dell'Istat, ci aiuta a comprenderne il valore il professor Lorenzo Codogno, fondatore della LC Macro Advisors, oltre che visiting professor alla London School of Economics e già capo economista del Ministero del Tesoro a Roma. Buon pomeriggio, professor Codogno. Buon pomeriggio. Professore, un suo primo commento a questi dati di oggi dell'Istat. Sono dati comunque positivi, mostrano che la crescita continua ad un ritmo abbastanza sostenuto, 1,04 trimestre su trimestre corrisponde ad un tasso annualizzato di 1,6%, che per gli standard italiani è comunque una crescita discretamente forte. Di negativo va detto che l'Italia, nonostante abbia perso moltissimo in termini di livello durante la crisi, il PIL stenta a mantenere il passo con gli altri paesi europei. Ricordo che in Germania la crescita nel secondo trimestre è stata 0,6, in Francia 0,5, quindi fa fatica l'Italia a tenere il passo agli altri paesi, anche in fase di recupero ciclico come quello attuale. Ecco, questo dunque, professore, è un recupero ciclico, è comunque l'aumento tra tendenziale e congiunturale, un aumento che non si vedeva da tempo. C'è un elemento che secondo lei sta trainando il prodotto interno lordo del nostro paese? Il dato positivo è che c'è sempre più domanda interna e anche le componenti della crescita sono sempre più diversificate, e questo significa che la crescita è più robusta ed è anche ha dei contenuti solidi. Detto questo, ci sono anche degli elementi leggermente negativi. Chiaramente l'apprezzamento dell'euro negli ultimi tempi porterà via un po' di crescita sull'esportazione, sul lato delle esportazioni. Non abbiamo ancora i dettagli del PIL del secondo trimestre, ma nel primo gli investimenti produttivi erano molto deboli, spero che in questo caso vedremo un forte rimbalzo, ma certo la componente investimenti è ancora a livelli molto bassi rispetto ai livelli pre-crisi e quindi c'è ancora molto recupero da fare, però detto questo comunque stiamo parlando di dati positivi, c'è una crescita che sicuramente è molto al di sopra del potenziale in Italia. E probabilmente questa crescita, ci sono tutti gli elementi perché questa crescita possa continuare anche nella seconda parte dell'anno. Ricordo che con questi dati, se avessimo crescita piatta negli altri due trimestri dell'anno, si chiuderebbe l'anno comunque con una crescita all'1,2%. Se invece si ripetesse il ritmo di crescita che si è visto nel secondo trimestre, cioè 0,4 trimestrale, l'anno finirebbe a 1,5, quindi comunque stiamo parlando di tassi di crescita più che buoni per gli standard italiani. Ecco, tassi di crescita che, come diceva lei, sono più che buoni per i nostri standard di crescita. C'è un elemento, secondo lei, che può aver inciso maggiormente su questo secondo trimestre, visto che lei stesso ricordava che nel primo gli investimenti produttivi sono stati abbastanza scarsi? Cosa può essere cambiato, visto che il più 0,4% di oggi è comunque superiore alle attese? Ma non penso sia cambiato molto, che la crescita col passare del tempo, grazie anche alla politica molto accomodante della Banca Centrale Europea, sta gradualmente recuperando i livelli che si erano visti in passato. C'è una crescita dell'occupazione che, anche se non particolarmente brillante, comunque è abbastanza stabile e continua già da vari trimestri, questo è sicuramente un dato positivo e questo ovviamente supporta anche i consumi. Ripeto, forse l'unico elemento ancora di criticità, di debolezza è sul lato degli investimenti. Non abbiamo ancora i dettagli, Abbiamo visto nei trimestri passati una ripresa abbastanza buona degli investimenti in veicoli, autovetture, sì, industriali, eccetera. Abbiamo visto una ripresa delle costruzioni, manca ancora una ripresa di investimenti produttivi che sia significativa in linea con la ripresa ciclica sia italiana che europea. Speriamo che questo sia il prossimo passo e questo possa rafforzare ulteriormente la crescita per i prossimi trimestri. Ecco professore, tra breve le sottoporrò alcune domande che ci fanno i nostri ascoltatori al 349-238-6666. Prima, per contribuire al nostro dibattito, andrei su un commento del ministro dell'economia Padoan, che si proietta alla prossima legge di bilancio, comunque ai prossimi provvedimenti, e dice ora è necessario concentrarsi sui giovani, per questi non si è fatta abbastanza, la crescita economica diffusa comincerà a produrre benefici comunque anche per loro, favorendone l'ingresso in un mercato del lavoro reso più dinamico e propenso alle assunzioni, sin qui il ministro dell'economia è Padoan. E poi andrei ad ascoltare il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che giudica positivamente i dati di oggi ma avverte: non bisogna smontare le riforme fatte fino ad oggi, e questo evidentemente è un invito rivolto all'esecutivo. Allora ascoltiamo Boccia ai microfoni Rai. Sono dati oggettivi e incontestabili, siamo a un'inversione che comincia a diventare strutturale, sono molti trimestri in cui i dati sono positivi e in questo caso sono anche oltre le aspettative, il che significa che l'effetto combinato di politica economica che riattiva investimenti privati è una capacità di reazione di gran parte dell'apparato industriale del Paese. Intanto non smontare le riforme fatte sino ad oggi, che sono la causa di questi effetti. E il secondo pilastro è cominciare a lavorare sul lavoro, per dare valore al lavoro e rendere sempre più competitivo il nostro Paese, partendo dai giovani, con un grande piano di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, in particolare nelle imprese private. E il mondo imprenditoriale deve continuare a fare quello che sta facendo. In realtà avere un incremento del 30% degli investimenti privati nel paese, un più 7% dei livelli di export, sono cause che già ci dicevano che evidentemente avrebbero dato degli effetti sul prodotto interno lordo del paese, combinate chiaramente a delle politiche economiche che sono state coerenti. L'industria italiana deve continuare ad investire, credere nel paese che dimostra di avere potenzialità elevate e costruire un percorso che possa essere strutturale in termini di crescita. Queste dunque le parole di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Secondo Boccia gli industriali hanno contribuito a questa ripresa, hanno fatto e stanno facendo la loro parte. Professor Codogno, sia Padoan che Boccia, guardando alla prossima legge di bilancio ma comunque ai prossimi provvedimenti, ai prossimi mesi, pensano all'occupazione, all'emergenza giovani, e da dove si deve partire secondo lei? L'occupazione è chiaramente il problema più importante, forse lo doveva essere considerato in maniera ancora più forte e pronunciata in passato. Detto questo, le riforme stanno effettivamente producendo i loro effetti positivi, l'occupazione cresce in maniera stabile già da vari trimestri, però la disoccupazione rimane molto alta, l'ultimo dato è l'11,1%. La disoccupazione di lungo periodo è ancora su livelli molto elevati, stiamo parlando intorno al 6,5%, e quella strutturale probabilmente è anche sopra il 9%. Quindi insomma sono dati ancora molto preoccupanti, perché chiaramente la forza lavoro, le persone che non sono occupate perdono anche capacità di essere occupabili in futuro, e quindi è particolarmente urgente, dopo molti anni di crisi, recuperare questa un segmento di popolazione che non riesce a trovare un'occupazione. I giovani sono particolarmente a rischio, perché usciti dalla scuola, dall'università, se faticano a trovare un posto di lavoro, chiaramente perdono anche le competenze e le qualifiche che hanno ottenuto durante la fase scolastica, e questo è preoccupante. Come dicevo, la disoccupazione giovanile è un terzo, vale 35% della forza lavoro giovanile, quindi questo è un dato molto preoccupante, va affrontato con molta forza e con molta energia. Questo spero che trovi uno spazio adeguato nella prossima legge di bilancio. Ecco professore, tornando ai dati Istat di oggi, lei ci diceva ha contribuito anche una ripresa dei consumi interni. Un nostro ascoltatore ci chiede: possono aver pesato i famosi 80 euro sui consumi interni? Ma io ho criticato in passato questa azione sugli 80 euro e a mio avviso non è con queste azioni estemporanee che si risolvono i problemi. I consumi si supportano grazie alla crescita occupazionale e alla crescita del reddito, quindi a mio avviso l'obiettivo primario dovrebbe essere quello di una riduzione della tassazione sul lavoro, sia a favore dei datori di lavoro sia a favore dei lavoratori. Questo è l'unico modo per favorire in maniera strutturale l'occupazione, aumentarla, supportare il reddito e quindi i consumi. Grazie, grazie al professor Lorenzo Codogno per il suo contributo per questo nostro approfondimento sui dati Istat relativi al prodotto interno lordo. Noi ci prendiamo una pausa e ci fermiamo per il meteo. Focus Economia. Trentaquattro, di nuovo insieme, Focus Economia. Diamo ora uno sguardo ai mercati, spazio quindi ai mercati internazionali. Lo facciamo grazie anche al contributo del collega di Radio Core, il Sole 24 Ore, CEO Condina. Buon pomeriggio, CEO. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, allora partiamo dalla considerazione di una positività di tutti i mercati internazionali, in particolare bene Milano, immagino anche sulla scia dei dati dell'Istat sul prodotto interno lordo. Sì, assolutamente, Milano sta chiudendo proprio in questi minuti, chiuderà tra due minuti, ma comunque Piazza Affari è la migliore del vecchio continente, soprattutto in scia ai dati del PIL del nostro paese, che si sta dimostrando migliore di quelle che erano le previsioni degli analisti, ma anche del governo, proiettano addirittura delle stime per un 1,5% per fine anno. Di questo non possono sicuramente che beneficiare le aziende del nostro listino. Non è un caso che tra i principali titoli a brillare sono soprattutto quelli delle banche. Come dicevi tu, comunque una seduta positiva per tutta l'Europa. Milano è la migliore, chiude con un rialzo oltre l'1,1%, Parigi e Francoforte fanno segnare un più 0,7%, anche Londra più 0,7%, gioca un ruolo importante sicuramente anche l'apertura positiva di Wall Street, che si candida a mettere a segno la quarta seduta consecutiva positiva. Ecco, per quanto riguarda Milano, lo anticipavi bene, le banche, proprio sulla scia dei dati Istat, immagino che non ci siano motivi particolari se non un ottimismo generalizzato. No, assolutamente, esattamente come dici tu, sicuramente le banche giocano un ruolo importante come cinghia di trasmissione all'interno, insomma, dell'economia del nostro paese, e chiaramente un'economia che viaggia al di sopra del ritmo previsto, dunque un'economia che viaggia bene non può che favorire le banche, per esempio anche sul fronte del recupero per quanto riguarda le sofferenze, cioè dei crediti inesigibili. Certo. Ricordiamo specifico, anche con il balzo di oggi Milano è tornata a sfiorare i massimi da dicembre 2015. E questo è un ottimo dato. Nello specifico, CEO, leggo in cima alla classifica dei migliori Atlantia. Sì, continuano a circolare oggi con maggiore insistenza, ci sono i rumors, oggi provengono dalla Spagna riguardo a Abertis. Come è noto, Atlantia lancerà un'offerta pubblica di acquisto e di scambio su Abertis, che è la principale società autostradale spagnola per creare appunto un colosso delle infrastrutture nel mondo. C'erano voci di una possibile controfferta da parte dell'ACS di Florentino Perez, che tra l'altro è anche il proprietario, sì, del Real Madrid, ma adesso le ultime indiscrezioni dicono che Florentino Perez potrebbe fare un passo indietro, quindi strada spianata per Atlantia, e Atlantia premiata dal mercato con un rialzo del 4,2%. Ecco, Atlantia premiata dal mercato che non ha premiato invece oggi le utility, c'è una ragione? Ma diciamo oggi utility e petroliferi sono un po' in sordina, sui petroliferi pesano le quotazioni del greggio che sono oggi in ribasso, il WTI a Wall Street cede circa 0.5 punto percentuale. Per quanto riguarda le utility, diciamo una seduta di assestamento, per esempio Enel oggi alla fine era sulla parità, alla fine ha recuperato lo 0.7%, ma aveva toccato proprio il 14 agosto i massimi degli ultimi 8 anni, quindi stiamo parlando di tanti titoli che erano arrivati vicini ai massimi e che oggi hanno avuto una seduta un po', come dicevo, di assestamento. Ecco, tra brevissimo parleremo, ti chiederò anche di Fiat Chrysler o in maniera più specifica della galassia che ruota attorno a Fiat Chrysler. Immagino quindi anche i titoli esposti verso gli Stati Uniti stiano vivendo in questa fase anche di tensioni internazionali, degli alti e bassi. Invece sale su una nuova commessa proprio negli Stati Uniti, Salini in pregilo. Sì, in pregilo sale su due... guadagna oltre l'1% in chiusura di seduta, sale principalmente su due fattori: da una parte, come accennavi tu, è una nuova commessa rilevata dalla controllata Lane in Texas per la costruzione di una ferrovia, dall'altra parte c'è il tema del canale di Panama. Salini in pregiro era capofila dei costruttori del nuovo canale di Panama, che ha superato in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista il traguardo dei 2000 transiti. Questo per quanto riguarda Salini in pregiro, e poi CEO chiudiamo con il Fiat Chrysler Exor. Sì, molto velocemente, oggi dopo le sirene cinesi di chi gli avevano fatto strappare il titolo, cioè che nell'ultima seduta, mi correggo, hanno fatto strappare il titolo, oggi c'è la notizia della firma di un accordo per sviluppare una piattaforma per l'auto intelligente insieme a BMW e a Intel. Un'altra notizia positiva per il titolo, che è arrivato anche ai massimi storici post separazione da Ferrari, a quota 11 euro, poi ha ripiegato leggermente, ha chiuso a 10,9 euro, il rialzo del 2,6%. E sin qui dunque l'andamento dei mercati, grazie a CEO Combina, grazie Radio voi, Core, il Sole 24 Ore, grazie CEO. Chiudiamo qui il settore dei mercati e andiamo a parlare nello specifico proprio del mondo Fiat Chrysler. Ci ritroviamo a distanza di 2 giorni di fatto ad approfondire ancora la galassia Fiat Chrysler. Lo facciamo grazie anche al contributo del collega di Radio Core Il Sole 24 Ore, Andrea Fontana. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio a voi. Allora, Andrea, lunedì le sirene cinesi rilanciate da notizie online, ma comunque molto accreditate su un interessamento cinese per Fiat Chrysler. Oggi invece qualcosa di più serio, ma comunque di più concreto per Fiat Chrysler. Beh, certamente sono proseguite quelli che sono i ragionamenti anche delle case di investimento sulla fattibilità dell'operazione, anche se da uno dei gruppi che Automotive News chiamava in causa, e in particolare Geely Automobiles, è arrivata una smentita alla presenza di piani di acquisizione del gruppo Fiat. Oggi Geely Automobiles presentava i conti semestrali. In quell'occasione è stato chiesto all'amministratore delegato dell'interesse di Fiat per Fiat Chrysler, e il management ha negato l'esistenza di progetti veri e propri. Però questo era uno dei gruppi di cui si poteva parlare, ma oltre che dell'interesse cinese, le case di investimento si sono soffermate sulla fattibilità dell'operazione, e non solo, sul fatto che il possibile interesse cinese, magari mancato, magari anche già tramontato, visto che lo stesso Automotive News parlava di un'offerta respinta perché non soddisfacente, possa invece riaprire quella partita delle alleanze a cui Fiat ha guardato con attenzione fino a non molti mesi fa e che quindi ha ancora presente, chiamando quindi in causa attori più importanti del settore dell'auto, come possono essere General Motors o addirittura Volkswagen. Ecco, secondo l'analista di Morgan Stanley Adam Jonas, un partner cinese per Fiat Chrysler avrebbe senso alla luce del fatto che la Cina è il principale mercato per i SUV e che Jeep, uno dei marchi di FCA, è sinonimo di questo tipo di veicoli. Era un discorso questo che anticipavi anche tu, Andrea, lunedì scorso. Sì, certamente le riflessioni che vengono fatte in questi giorni riguardano la fattibilità industriale e l'aspetto di dell'avere un mercato importante per la penetrazione di questi di veicoli ad alta marginalità come sono quelli con il marchio Jeep, come sono appunto i segmenti dei pick-up, dei crossover, dei SUV. Sono uno dei fattori che renderebbero più appetibile un'alleanza tra un costruttore cinese e il gruppo Fiat, unito al fatto che chiaramente Fiat è un soggetto molto importante, vista la sua anima italo-americana, quindi metà europea e metà americana, per il mercato statunitense, anche se, e l'hanno sottolineato molti commentatori in questi giorni e gli stessi operatori, il punto interrogativo di quale sarebbe la reazione dell'amministrazione Trump a una proposta reale, concreta, di un gruppo cinese per uno dei tre grandi marchi, i tre grandi gruppi di costruzione statunitense, nello specifico Chrysler, è tutta da vedere e questo, quale sarà questa reazione. Certo, e questo, Andrea, è un argomento interessante che lunedì, poi per mancanza di tempo, non abbiamo approfondito. Tu anticipavi i dubbi che potrebbe avere l'amministrazione Trump su un eventuale ingresso dei cinesi in un gruppo così presente negli Stati Uniti, ma gli stessi dubbi li stanno avendo anche a Bruxelles, dove si sta cercando di mettere uno stop anche a queste acquisizioni cinesi nel vecchio continente. È un discorso, quindi, questo che prende le due sponde dell'Atlantico. Sicuramente a maggior ragione per quanto riguarda gli Stati Uniti, visto che i temi che vanno sotto quell'aspetto definito come guerra commerciale sono diventati ancora più d'attualità con la presidenza Trump, e quindi sarebbe bizzarro vedere che un marchio della old economy americana come Chrysler possa passare sotto la bandiera cinese. Questo certamente non mette da parte il fatto che le decisioni passino anche da Fiat e dalle sue strategie, da Exor, ma certamente il settore auto è un settore ad alto peso politico, visti anche i rapporti con i sindacati, i posti di lavoro che vengono coinvolti in questo tipo di operazione. E tant'è che qualche analista proprio prefigurando le perplessità dell'amministrazione Trump non esclude il fatto che nel caso in cui prendesse veramente corpo l'idea di una trattativa tra Pechino e Torino, l'amministrazione Trump possa chiamare in causa General Motors, che invece fino allo scorso anno ha sempre respinto le trattative con Fiat Chrysler, ma che resta l'ambizione, uno degli obiettivi di Sergio Marchionne, l'amministratore delegato, che ricordiamo ha annunciato la fine del suo mandato in Fiat Chrysler per il 2018, e quindi non è escluso che un'operazione significativa e quindi di riassetto per Fiat possa essere allo studio in questa fase, visto che poi il 2018 è dietro l'angolo e che quindi Marchionne possa voler pilotare questa trasformazione lui stesso prima di abbandonare la guida del gruppo. Bene, Andrea, resta con noi, ci fermiamo per il traffico e poi andiamo a parlare dell'alleanza annunciata oggi con BMW per la piattaforma a guida autonoma. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, siamo in compagnia di Andrea Fontana di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Andrea, partiamo e chiudiamo il nostro discorso su Fiat Chrysler dalla notizia della giornata di oggi. FCA si unirà al gruppo BMW Intel e Mobileye nello sviluppo di una piattaforma tecnologica per la guida autonoma. Il significato di quest'intesa, secondo il tuo parere? Beh, innanzitutto negli ultimi mesi abbiamo visto come la gran parte delle case automobilistiche stiano facendo degli sforzi importanti in questa direzione, che non è solo prettamente quella dell'auto che si guida da sé, per intenderci, certo. Ma che è, diciamo così, di tecnologie che vanno in una direzione di guida automatizzata, che quindi coinvolge diciamo così i temi della sicurezza, della gestione della guida a più livelli, tant'è vero che esistono 5 livelli, diciamo così, in cui il senso di guida autonoma si applica alle auto, e solo il quinto di questi livelli è quello dell'auto dove il sistema controlla interamente tutte le fasi, diciamo, della guida e dell'ambiente dell'auto. Quindi lo sforzo che Fiat fa e che si inserisce in partnership con questi altri gruppi si inserisce in un contesto in cui molte saranno le risorse che i gruppi auto dovranno destinare e stanno destinando a questi aspetti, che coinvolgono, diciamo, l'aspetto più futuribile delle auto a guida totalmente controllata dal sistema, ma coinvolgono tutti gli aspetti del controllo dei consumi, della sicurezza. E Fiat lo fa con un piano che riguardava già i suoi partner, sì, cioè BMW, Intel e questo gruppo israeliano Mobileye, che Intel si è acquistata per circa 15 miliardi di dollari pochi mesi fa, in un piano che punta a mettere in produzione veicoli a guida autonoma entro il 2021 e a sperimentare già alcune 40 vetture autonome sperimentali entro la fine di quest'anno, del 2017. Certo. Del 2017. L'idea è quella di, come ha detto anche l'amministratore delegato Marchione commentando l'accordo, è proprio quello di fare sinergia tra le varie capacità che riguardano i costruttori puri di autoveicolo, autoveicoli, i fornitori di componentistica, i fornitori di tecnologia, nell'idea che questi obiettivi si possono raggiungere solo visto l'importante, diciamo, l'intensità di capitale che questi sforzi richiedono, solo attraverso appunto alleanze di questo tipo. Grazie ad Andrea Fontana, collega di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Noi cambiamo argomento. Il nostro ultimo spazio di Focus Economia lo dedichiamo alle compagnie aeree, alla crisi annunciata di Air Berlin in bancarotta, ma comunque i voli sono garantiti. Ci aiuta a capire meglio questo argomento Antonio Bordoni, autore del libro Alitalia, gli anni dell'oblia, edito da Travel Factory. Bordoni, buon pomeriggio e grazie per il suo intervento. Buonasera e grazie della chiamata di Ferragosto. Ecco Bordoni, la sorprende innanzitutto questa notizia relativa ad Air Berlin? Allora, lei che Berlin, conosce molto bene il settore, logicamente. Sì, senz'altro. Se mai si dovesse verificare questo merger fra Lufthansa e Air Berlin, non dimentichiamoci un punto importante, che si tratta di una fusione domestica, un po' come quella che è avvenuta fra Alitalia ed Air One. E le fusioni domestiche non sono mai state ostacolate da Bruxelles, perché in effetti sono andate sempre a buon fine. Quello che invece deve preoccupare è che se Air Berlin venisse presa da Lufthansa si consoliderebbe ulteriormente, oltre a Swissair, oltre a Brussels Airlines, la vecchia Sabena, sì, oltre a Austrian Airlines, si prenderebbe questa compagnia il che ovviamente formerebbe ancora più un oligopolio fantastico in casa tedesca. Però bisogna dire, al di là di quello che si può criticare per la politica di Etihad, che Air Berlin in casa sua si doveva confrontare con Lufthansa. Lufthansa, ve lo ricordo, è il quarto gruppo mondiale per fatturato, nel 2016 ha fatto 34 miliardi di dollari, si pone alle spalle di American Airlines, di Delta, di United, quarto gruppo per fatturato mondiale, nel campo delle compagnie aeree ovviamente, certo. E confrontarsi per Air Berlin, confrontarsi con un gigante del genere non deve essere stato facile. E qui c'è un errore di strategia forse da parte di Etihad, perché mentre Etihad quando va a prendere Alitalia o prende il 49% di Alitalia si lega a una compagnia il cui mercato domestico è completamente alla mercé di chi se lo prende, certo. In casa tedesca ovviamente le cose sono ben differenti. Io per quel piccolo che posso contare mi sarei guardato bene di andarmi a prendere un 29% di una compagnia che, ripeto, quotidianamente si deve confrontare con un gigante come Lufthansa. Ecco Bordoni, scusi, lei ci ha spiegato in modo molto chiaro che le realtà, quella italiana e quella tedesca, sono molto diverse. L'ingresso di Etihad in Alitalia è stato del 49%, in Air Berlin, lo diceva lei, con una quota molto 29. Inferiore, per cui non sono casi paragonabili. Resta però l'elemento comune che Etihad ha sbagliato in entrambi i casi e ci si stupisce di fronte ad un colosso comunque. Con alle spalle miliardi di dollari grazie anche al petrolio. Cos'è che non va? Chi guida Etihad o cosa? Prego. No, finisca la domanda, poi intervengo. No, la domanda è questa. È possibile che i manager di Etihad siano così scarsi, diciamocelo chiaramente, perché hanno sbagliato sia in Alitalia che in Air Berlin? Se voi andate a vedere le graduatorie degli aeroporti mondiali, sempre riferito al 2016, vedreste che Dubai è al terzo posto dopo Atlanta e dopo Pechino con 83 milioni di passeggeri. Dubai è Emirates. Se poi andiamo a guardare Doha, Qatar Airways è al 50° posto con 37 milioni di passeggeri. Abu Dhabi, compagnia di Etihad, è all'80° posto con, se non vado errato, un 24 milioni di passeggeri annui, che sono quelli che movimenta Vienna, Düsseldorf, sì, Londra, Stansted, tanto per darvi un'idea. Perché vi dico queste cifre? Perché mentre la politica di Emirates, e lo dimostrano quelle cifre che vi ho detto, 84 milioni di passeggeri transitati su Abu Dhabi nel 2016, è stata quella di collegare i punti europei, i punti del Mediterraneo al mio hub di Abu Dhabi e da lì portarli in tutto il mondo. Stessa cosa ha fatto la Qatar Airways con i propri aerei, sia pure in misura ancora più piccola di Emirates, 50° posto, 37 milioni di passeggeri sull'aeroporto di Doha. Per Abu Dhabi invece la Etihad che cosa ha fatto? Non ha sviluppato una sua rete di collegamenti che si potessero interconnettere al suo hub, così come ha fatto la Emirates su Dubai e così come ha fatto la Qatar Airways su Doha, che hanno fatto crescere quindi i loro aeroporti con quelle cifre che vi ho detto, bensì ha puntato su acquisizioni azionarie di vettori aerei con i quali sperava di far fideraggio, una politica completamente differente da quella di Emirates e di Qatar. È una politica, Bordoni, che evidentemente non ha pagato. Bordoni, siamo in chiusura, le chiedo allora una risposta brevissima. Prego. Lei ci spiegava che un'eventuale acquisizione di Air Berlin da parte di Lufthansa non prevede particolari ostacoli. Il governo di Berlino metterebbe 150 milioni per l'operatività di questi giorni. Vede lei invece degli ostacoli nei prossimi mesi che potrebbero arrivare dalla Commissione europea a questa possibile acquisizione? La Commissione europea ha sempre facilitato il gioco di Lufthansa, è mia personale opinione che lo faciliterebbe anche in questa occasione. L'unica che potrebbe opporsi, perché si sta ben consolidando in Germania così come ha fatto in Italia, Ryanair, che ha già preannunciato tuoni e fulmini se questa fusione avverrà. Bordoni è stato gentilissimo e molto chiaro, grazie del suo contributo. Un ringraziamento va anche a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Gianmarco Ferronato in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. Libera la voglia di fare.